Una buonasera da parte di Max Macchia, che questa sera in compagnia, vi terrà compagnia, anzi io sono in compagnia di nessuno, visto che il mio compagno di strada Eliseo Scarpa è da un'altra parte. Comunque salutiamo, domenica prossima saremo insieme, tornerà l'insidiosa coppia, e questa sera appunto in mia compagnia, 451 frammenti sonori, compagnia di Max Macchia, che questa sera probabilmente vi terrà compagnia, per chi voglia, se la senta, non con sonorità particolarmente brumose, cacofoniche o particolarmente sperimentali. E qua metto un punto di domanda, perché la trasmissione di questa sera di 451 in primo luogo ha una dedica da fare ad Arthur Russell, che qualche giorno fa in un evento piccolo ma insomma piuttosto interessante ha visto così dei video tramite insomma Angelica Invernale, chiamiamola così, e, trasmessi appunto durante una serata con Walter Rovere e commentatori vari su la grande figura del discografico americano, chiamiamolo così in senso lato, visto che poi entreremo dentro il mondo di Arthur Russell, discografico nel senso filologico del termine, ovvero chi studiava sia la disco, e quindi facciamo un giochino di parole, e sia chiaramente la discografia, ma in termini veramente di ampiezza e di discoteca, non soltanto come pista da ballo ma anche come luogo, spazio fisico riempito non solo dai vinili ma dagli oggetti musicali vari, e anche perché no, visto che poi il vinile, il supporto fonografico porta musica, proprio da quello che c'era dentro o da quello che c'è ancora, visto che i supporti non sono ancora scomparsi. Arthur Russell sì, purtroppo, ma molte delle sue conoscenze, molte delle sue attitudini sono piuttosto vive, per tanti aspetti può essere un padre di molti artisti anche attuali. E partendo appunto dal grande Arthur Russell, come non dedicare questa serata di 451, anche facendo una sorta così di infedeltà rispetto alle musiche sperimentali, ecco perché prima usavo il punto di domanda, in realtà poi sono sperimentali e come certe cose che metteremo stasera, una trasmissione dedicata vagamente o approfonditamente, chissà, per certi versi la disco è quella che stasera metteremo, per altri e forse insomma anche versi più conosciuti e più mainstream e anche così storicizzati come tali, la disco è stata insomma Bee Gees, Tramps e faccende insomma legate, Gloria Gaynor eccetera eccetera, legate insomma a un mainstream molto commerciale, seppur insomma anch'esso da vedere non con come dire le fette di prosciutto davanti agli occhi, però insomma la disco è anche stata forse un'altra cosa. E forse dalla disco si è passati ad un'altra faccenda più annosa per tanti aspetti, che ha avvicinato le culture alternative, aspetti musicali magari persi oppure sviati dentro altre situazioni, ovvero le dance underground si sono sviluppate alla metà degli anni 80, quindi tutto l'acid e buona parte anche della techno. E attraverso appunto quella che è una figura centrale e iniziale per quanto riguarda questo percorso questa sera di 451, quella di Arthur Russell, andiamo appunto a dipanare, come amerebbe dire il mio compagno di strada Eliseo Scarpa, proprio una sorta di linea, di fil rouge che noi amiamo particolarmente tessere dentro le trasmissioni, di frammenti sonori, che ci porterà appunto dentro una annata, annate particolari, con dei rimandi chiaramente che interessano i nostri giorni, che forse non si sentiranno direttamente, ma indirettamente veramente si possono sentire tante tante cose, forse non soltanto l'house e la techno, ma veramente anche musiche che si cibano di sperimentazioni veramente sui generis. Dinosaur, stupendo progetto di Arthur Russell insieme a David Byrne, insieme a gente che circolava nell'ambiente della gallery di Nicky Sian, una delle discoteche underground degli anni 70, prima che scoppiasse lo studio 54, e quindi quello che accennavo prima, insomma, come disco mainstream, staristica, insomma, faccenda che è piuttosto conosciuta, Mick Jagger e compagnia, insomma, Glemmante, che frequentava lo studio 54, Gallery invece faccenda decisamente più underground e, se vogliamo, insomma, più vicina a un'idea post hippie, magari data da David Mancuso, Francis Grasso nei primi anni 70, con appunto i primi locali della Manhattan svuotata dalla crisi, dello shock petrolifero, e con ancora un senso utopico e comunitario che poi in termini commerciali, insomma, sarà portato alle casse delle major, che da fenomeno underground americano faranno diventare fenomeno internazionale, tanto da creare anche proprio dei sottogeneri, Eurodisco, High Energy, eccetera eccetera, ma per tanti versi perdendo veramente il primissimo senso dato alla disco. Comunque dopo entreremo anche in qualche dettaglio di questo tipo. Dinosaur, quindi, è versione originale di Kiss Me Again, Arthur Russell con David Byrne, come dicevo prima, e varie personalità tra ballerini, coriste, che genialmente il grande sperimentatore Arthur Russell, ricordiamo, usciva dalla scuola di Phil Niblock, molto vicino a Glass, al minimalismo, insomma, storico, e con un senso veramente non eclettico, pan musicale si potrebbe definire la sua curiosità, che lo portò addirittura a sperimentare con la disco. Dinosaur. You make it feel so fine now. Come due personaggi, come Arthur Russell e David Byrne, il primo proveniente da ambienti assolutamente legati all'avanguardia. Prima citavo Niblock, Glass, ma si potrebbe citare Ginsberg, suo padre putativo in termini poetici, ma anche una Russell che questa sera ovviamente ci interessa, visto che poi nella seconda parte tornerà in maniera insomma anche piuttosto consistente. È un Russell che alla fine degli anni 70 si accorge che dentro le piste da ballo, anzi metà degli anni 70, non esageriamo insomma con lo scorrere del tempo, visto che poi alla fine degli anni 70 ci sarà l'esplosione della disco a livello mondiale, soprattutto dopo lo studio 54 e ancor di più la febbre del sabato sera. E a metà degli anni 70 frequenta il Gallery Arthur Russell, lui che stava componendo cose meravigliose come Instrumental, che sostanzialmente si rifà per molti aspetti alle musiche minimaliste, anche se con un taglio assolutamente personale, come tutte le musiche di Arthur Russell fino veramente alla sua morte, il suo ultimo grande capolavoro che World of Ico, dove addirittura lì si celebra una sorta di pop atmosferico da battissimo e veramente ultraterreno, un'invenzione che forse considerare avant-pop è anche un po' restrittivo rispetto a veramente a un'idea della musica, dell'arte assolutamente aperta, assolutamente, prima dicevo, pan musicale, si potrebbe dire anche pan artistica, e forse anche con una curiosità esistenziale umana che lo rende veramente personaggio originale, anche dentro un periodo storico, quella della downtown della New York della seconda metà degli anni 70, dove ce n'erano vari di personaggi originali, e addirittura tutti questi personaggi che attraversavano Manhattan, per alcuni versi il Bronx, anche se poi dopo, insomma, farà successo con successo in termini underground con l'hip hop e poi anche overground dopo. La faccenda, insomma, di Russell è veramente particolare, perché gettarsi così dal mondo dell'avanguardia al mondo della disco, capendo che probabilmente dentro certe musicalità c'è un futuro che non è soltanto dato da una danza sciocca e di intrattenimento, ma anche forme musicali e di comunità molto differenti, di sperimentazione in effetti poi esistenziale, umana e artistica, che se per Arthur Russell furono importanti, gettarono anche molti ponti verso quelle house che poi diventeranno, prendendo anche insomma riferimenti chiari da lui, diventeranno anche delle sorte di viatici nuovi per quanto riguarda la generazione rave, quindi tutta un'alterità, addirittura anche un antagonismo per certi versi, che si riverserà su, ad esempio, buona parte della techno di Detroit, della techno inglese, The Warp, magari più vicino a quello che è stato anche la Wave. Russell, che appunto partecipa anche a progetti totalità Wave nei primi anni 80, e che comunque riesce a prendere veramente una parte della disco che magari in quel momento si dava per scontato, appunto come movimento underground legato ai loft di Manhattan, che stavano soffrendo la grande crisi economica di metà degli anni 70, quindi posti insomma abbandonati dagli uomini e da Dio, qualcuno direbbe, e invece molti artisti, appunto, magari in preda insomma a sofferenze economiche, si butteranno in questi loft e creeranno delle sorte di comuni artistiche assolutamente nuove, assolutamente innovative in termini veramente di linguaggio generale. Da lì nascerà la New Wave, che interesserà anche appunto lo stesso Arthur Russell, tanto per citare veramente un'altra delle correnti, delle musicalità attraversate da questo grande autore. D'altronde buona parte di queste cose, prima citavo la bella serata dell'altra sera organizzata da Angelica, così edizione invernale, dove c'era Tim Lawrence, che ha scritto un meraviglioso saggio, Arthur Russell e la scena di Downtown 1973-1992, dove attraverso Arthur Russell poi si traccia uno dei periodi storicamente più importanti a livello musicale, ma anche a livello artistico, non soltanto per New York, ma appunto per il mondo, visto che poi veramente diventa anche la centralità rispetto alle musiche alternative, rispetto alle musiche nuove, New York insieme a altre città come Berlino, ma forse Berlino è una delle poche che può veramente vantare crediti quanto New York, Londra per molti aspetti, la New Wave eccetera, Sheffield, ma la particolarità insomma del crogiolo di stili, di assurdità anche musicali incredibilmente sintetizzate da quelle generazioni fine anni 70, primi anni 80, è stata soltanto probabilmente di New York e di personaggi appunto come Arthur Russell, che riuscivano veramente a sperimentare anche sul corpo disco, cosa che sembra una bestemmia incredibile, eppure ci sono ancora reticenze in questo senso. Uno degli altri personaggi molto recuperati in questi anni è stato sicuramente Larry Levan, sono state ristampate soprattutto le cose legate ai suoi remix, che altro non erano che dilatazioni geniali anche per tanti aspetti della disco, anche più così da dance conosciuta, quindi riconoscimento anche da standard tra virgolette disco della fine degli anni 70, dilatate, rese decisamente fumose, ma con i Beach Boys raggiunge un livello molto trasversale di musicalità, tra una sorta di dub passato attraverso una vaghezza new wave, attraverso un senso disco che è già proto house, e un'astrazione che è tutta di Larry Levan, perché poi riesce anche essere incredibilmente diretto, appunto, pur essendo astratto, se non addirittura certe volte metafisico. Beach Boys era il suo gruppo wave, chiamiamolo così, wave disco. Yeah. set it off, I suggest y'all set it off, I suggest y'all set it off. We'll be right back. Dinosaur, poi Peach Boys e Strafe, Set It Off. Non potrebbe anche dire niente il nome Strafe, forse può dire di più un nome come Walter Gibbons, uno dei geniacci delle musiche elettroniche degli anni 70-80, magari un po' meno conosciuto rispetto a altri personaggi. Lo stesso Levan sicuramente ha avuto più fortuna, seppur insomma postuma, decisamente. Anche Gibbons non c'è più, però insomma il culto legato a Levan sicuramente è molto forte anche in ambienti insomma non soltanto dance, ecco. Invece per quanto riguarda Gibbons la faccenda è più particolare, perché Gibbons, se prima abbiamo usato il termine astratto con Larry Levan, Gibbons era veramente astrattissimo. In questo senso si può allargare il suo discorso dalla disco, come per Arthur Russell, seppur non avendo il background di Arthur Russell avanguardistico. Comunque Gibbons è sempre stato il più psichedelico e sperimentale dell'ambiente della disco o paradisco, perché poi molto legato a un personaggio come Nicky Siano, che abbiamo prima citato indirettamente col Gallery, legato a Nicky Siano anche perché come DJ lavorava al Gallery e perché veramente faceva un lavoglio di tagli e cuci che anticiperà per molti aspetti l'hip hop e per altri aspetti anche musicalità poi molto lontane da quelle che stiamo trattando questa sera, ma che poi in realtà non lo sono più di tanto. Ad esempio, per quanto riguarda Peach Boys, uno dei personaggi che girava dentro il gruppo, appunto, abbiamo considerato Wave Disco così in maniera provocatoria prima, uno dei personaggi insieme a Larry Levan era anche Ferdinand Fowler, che poi sarà uno dei protagonisti di un splendido progetto para-industrial con tanto di dabbismo e di anticipazione di trip hop. Veramente qua ne mettiamo dentro di tutte. Tuckhead, che vedrà Mark Stewart ad esempio di Pop Group dentro, come personaggi come Adrian Sherwood, che avranno certo insomma un po' di conoscenza da parte dei radioascoltatori di 451, non soltanto per avere fatto collaborazioni con Struzzano e Bauten e faccende insomma molto grosse degli anni 80, oltre che creare un suo impero alternativo alle grandi major con la sua Onon Sound e creando dei suoni veramente incredibili, soprattutto con Tuckhead e le sue produzioni insomma legate al giro post pop group. E la faccenda poi appunto di Gibbons e quindi questi personaggi che lavorano diciamo dietro quell'apparenza legata alla pista di ballo, evidentemente è fondativa di quello che poi sarà il crogiolo di stili della seconda metà degli anni 80, non soltanto per quanto riguarda le nuove elettroniche, ma anche per una forse wave interpretata come wave disco, come punk disco. Tante definizioni sono state insomma, e soprattutto in questo periodo vengono ritirate fuori proprio per parlare di anche un crossover indie che si è sviluppato molto soprattutto in Inghilterra. Andy Waterall, la Warp, che prende a piene mani sia dalla wave anche radicale industriale e sia anche da certe forme di disco che passano assolutamente da quella New York di Arthur Russell, di Larry Levan e di Walter Gibbons, come d'altronde disco poi fondamentale e celeberrimo di tutta questa faccenda che stiamo trattando questa sera, di From Disco No Disco potremmo chiamarla, di 451, è Was No Was, tratto da Mutant Disco, che dà proprio insomma la definizione di quella sorta di mutazione che stava avvenendo tra No Wave, disco avant, chiamiamola così, wave alla nascita di tale genere genere di tale attitudine, una sorta di punk modificato da una grande fantasia e da un grande crogiolo di stili e di mentalità. Andiamocelo a prendere quindi, Was No Was, dal storico Mutant Disco. Really?